F. Ascolta il testo. In provincia di Trapani, Selinunte lascia il turista incantato. Questa città greca, fondata nel VII secolo a.C., ha un fascino enorme perché offre tanti resti da costituire uno dei principali complessi archeologici del mondo. L'acropoli, che conserva i resti dei templi O, A, C e D, sorge su una spianata irregolare leggermente inclinata verso il mare, mentre su una collina sacra a nord-est sorgono i templi E, F e G. Il tempio E, dedicato ad Era, fu oggetto di restauro negli anni 50 del secolo scorso. Il tempio F, dedicato ad Atena e oggi completamente distrutto, risale al 530 a.C., mentre il colossale tempio G, rimasto incompiuto e probabilmente dedicato a Zeus, è uno dei maggiori dell'antichità classica.